tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat, siamo una nuova puntata del notiziario anticlericale e iniziamo da Roma, 29 giugno 2020. Roma, custode della Chiesa, tenta di violentare e strangolare una donna, arrestato. Dico sempre, evitate le chiese che sono luoghi pericolosi. Lui, un passato eccetera eccetera, era custode tuttofare del centro parrocchiale di Roma. Dalle mie ricerche bibliografiche è saltato fuori questo prete degenerato, il cardinal De Cupis, 1493-1553. Secondo Wikipedia ebbe 4 figli, alla faccia della castità. Ebbe 4 figli naturali da una donna sconosciuta. Invece, secondo la Treccani, dizionario biografico degli italiani, ebbe 1 solo figlio che nominò erede universale alla faccia dei poveri e 3 nipoti, quindi 4 in realtà erano 1 figlio e 3 nipoti. Dalle mie ricerche bibliografiche è saltato fuori questo libretto ateo anticlericale Vita di Cristo, messa a confronto con Napoleone, Garibaldi e col papato, di Anonimo. È interessante, questo libro fu empio e antireligioso, e questo empio scrittore che attacca il potere dei papi, quali sono stati il flagello umano, critica aspramente il potere temporale del papato e della Chiesa. Quindi questo libro fu messo subito all'indice dei libri proibiti il 13 luglio 1864. Altro libro empio anticlericale da segnalare, sempre del 1864, di questo maestro napoletano di nome Domenico Iaccarino. Feroce sarcasmo e pungente ironia contro il mondo clericale, il Papa e lo Stato della Chiesa. Condanna la ricchezza e le usanze scandalose della Chiesa. Il potere temporale è paragonato a un cadavere. Infatti la copertina del libro vede questa Italia in forma di donna con una spada che caccia 3 preti, di cui uno spaventosamente obeso, in un sarcofago. Insomma, il Sant'Uffizio, il 17 agosto 1864, prende in esame questo libro, ne nota la virulenta invettiva contro il dominio temporale della Santa Sede, contro il Papa, contro i cardinali, contro i preti, e alla fine ovviamente fu messo all'indice. L'autore era nato a Napoli nel 1840 e era maestro delle scuole municipali. Era un grande amante di Dante, sicuramente di quei passi in cui mette i papi all'inferno. Il poeta Trilussa Romano fece anche un componimento su Giordano Bruno, fece la fine dell'abbacchio al forno, perché credeva al libero pensiero, perché se un prete gli diceva «è vero», lui rispondeva «non è vero un corno». Con quelle idee si intenne la bruciarono. Per via che il Papa allora era severo, mannava le scomuniche davvero, e er boia stava all'ordine del giorno. Adesso su altri tempi, con l'affare che il libero pensiero sta a cavallo, nessuno può fa più quel che gli pare. E in oggi, con lo spirito moderno, se a un Papa gli criccasse da bruciarlo, piglierebbe accordi col governo. Segnalo sul sito giordanobrunomi.wordpress.com, e alla pagina recensione trovate oltre 400 recensioni di libri atei anticlericali. Viva il libero pensiero, ora e sempre resistenza anticlericale. Abbasso il Papa, abbasso il Vaticano. E dal mio dizionario anticlericale siamo sempre alla A. Avversari aristotelico baciapiltolemaici, questo è tratto dall'Ateo del 2014. Chi sono questi avversari aristotelico baciapiltolemaici? Erano i nemici di Galileo, legati ad ottuse teorie religioso-tradizionaliste. Qual è questo banale aggeggio di sacrestia secondo la rivista Non Credo del 2015? E ovviamente il crocifisso. Proseguiamo l'esame del mio calendario anticlericale di quest'anno, del 2020, prete cattolico, e c'è la pagina dei suicidi clericali, che sono una prova evidente della falsità della religione cattolica. Infatti, se effettivamente accostandosi alla comunione si avrebbero tutti quei benefici che la Chiesa tenta di farci credere, e nessun prete dovrebbe suicidarsi, anzi dovrebbero essere tutti felici e contenti. Invece, prete cattolico si suicida a Savannah, USA nel 2017, Don Grover, inquisito pedofilo. Prete si impicca in bagno nella sua canonica di Quito, in Ecuador, nel 2017. Don Carrillo era anche cappellano dell'esercito. Suora tenta il suicidio a Bologna. I carabinieri l'hanno afferrata al volo all'ultimo momento. Prete trovato morto a Marano nel 2018. A Parma, mi sembra. Rinvenuto sotto il campanile. Nessuna lettera, nessun testimone. Aveva solo 40 anni. Ex prete cattolico si suicida in Saratoga, Stati Uniti, nel 2018. Don Hans era inquisito per crimini sessuali. Bene, arrivederci alla prossima puntata del notiziario anticlericale. Saluti a tutti.